XV a tutto tondo che vanno dalla guerra al neoliberismo alle possibili ricette per contrastare questi mali contemporanei. Su tutto però l'impianto ideologico domina, diciamo, una richiesta, una forte richiesta, una necessità di unità dei movimenti, quindi insomma un grande progetto per tenere assieme questo soggetto che sia collettivo e si vuole fare diventare in una certa maniera unitaria. Sto travisando più o meno questo, uno dei concetti che sta alle basi delle 15 tesi? No, mi pare un'interpretazione giusta. Tra l'altro c'è un elemento, diciamo, che rovescia quello che storicamente, tradizionalmente è stata l'impostazione di ogni forza comunista, cioè quella di produrre egemonia e egemonia dentro i movimenti. Adesso la Rifondazione ritiene che il tema di fondo strategico per la sua espansione è la centralità dei movimenti senza produrre un'egemonia culturale. Anzi, di rovesciare, di produrre l'egemonia culturale del movimento o dei movimenti sulla società. Ecco, in che quadro va collocata la partecipazione di una forza di sinistra antagonista ed alternativa, come è quella espressa, diciamo, da Rifondazione Comunista, che vuole costruire, insomma, questa alternativa al berlusconismo, quindi a Berlusconi, ma anche alle idee che sottendono il berlusconismo, soprattutto alla luce della critica che si legge nelle 15 tesi al neocentrismo, quindi ai partiti anche dell'Ulivo, però di centro, penso si parli dell'Udeur e della Margherita, sia anche al riformismo. Ma io da questo punto di vista credo sono molto netto. Se si seguono le impostazioni neocentriste, noi abbiamo belle che perso, perché le impostazioni neocentriste è come se volessero ereditare un pezzo della sconfitta di Berlusconi. Se tu dici che non bisogna cancellare la legge 30, che prevede 48 tipologie professionali, che precarizza il rapporto di lavoro, che non bisogna cambiare radicalmente la legge sulle pensioni, che non bisogna cancellare la legge Bossi-Fini, è del tutto evidente che tu stai prendendo un pezzo della crisi del blocco sociale di Berlusconi, che è determinato esattamente da questa politica, e te lo accogli. Il rischio è che così si perda. Un'ultima domanda, poi la lasciamo andare. Questi movimenti di cui abbiamo parlato all'inizio, questi movimenti sono messi sotto accusa, e ovviamente il mio riferimento è a questo weekend cosentino e al 2 dicembre, data in cui inizierà il processo per i 12 del Sud ribelle. Sotto la sbarra, alla sbarra ci sono le idee. Sì, è quello che classicamente possiamo definire un reato d'opposizione, come l'ha definito il nostro segretario Fausto Bertinotti. Noi dobbiamo con grande intransigenza difendere la libertà di espressione, la libertà di critica, la libertà di movimento, la libertà di opposizione. Attenzione, perché se non lo facciamo, oggi toccano le aree più esposte, i no global, e domani toccherà un sindacalista, dopodomani a uno che combatte per la liberazione dalle tossicodipendenze, l'altro domani ancora contro chi combatte l'inceneritore da Cerra, e ancora su tutte le battaglie ambientaliste. Attenzione, attenzione e attenzione. È in discussione la libertà giuridica e i diritti nel nostro paese.